Una mattina il principe di Castelforte venne da Corinna, era malinconico ed ella gliene domandò la causa. Quello scozzese, le disse, vuole rapirci la vostra affezione e chissà anche se vi trascinerà con sé. Corinna se ne stette in silenzio per pochi momenti, poi rispose, vi attesto che non mi ha mai detto di amarmi. Voi lo credete però, riprese il principe di Castelforte, egli vi parla col suo sistema di vita e il suo silenzio medesimo è un abile mezzo di interessarvi. Che può egli dirvi infatti che non abbiate inteso? Qual è la lode che non vi sia stata offerta? Qual è l'omaggio a cui non vi siate assuefatta? Ma vi è qualche cosa di represso e di velato nel carattere di Lord Nelvil, che non vi permetterà mai di giudicarlo interamente come avete fatto con noi. Voi siete la persona del mondo la più facile ad essere conosciuta, ma perché appunto vi mostrate volentieri tale quale voi siete, egli è per questo che vi piacciono e vi signoreggiano la riservatezza e il mistero. Una cosa ignota, qualunque sia, ha più ascendente su di voi di tutti i sentimenti che vi si esternano. Corinna sorrise. Voi credete dunque, caro principe, gli rispose, che il mio cuore sia ingrato e la mia immaginazione capricciosa? Mi sembra peraltro che Lord Nelvil possegga e lasci vedere delle qualità assai notevoli, perché io non possa lusingarmi di averle scoperte. Il principe di Castelforte replicò: Sì, ne convengo, lui è un uomo altero, nobile, spiritoso, sensibile anche, e soprattutto malinconico. Ma io mi sbaglio di grosso. O i suoi gusti non hanno la minima relazione coi vostri. Voi non ve ne accorgerete fin tanto che lui sarà sotto l'incantesimo della vostra presenza. Ma il vostro impero su di lui non reggerebbe se vi fosse lontano. Gli ostacoli lo stancano. La sua anima ha contratto per le afflizioni sofferto una specie di scoraggiamento che deve nuocere all'energia delle sue risoluzioni. Voi sapete, d'altra parte, quanto gli inglesi in generale siano schiavi dei costumi e delle abitudini del loro paese. A queste parole Corinna tacque e sospirò. Si presentarono al suo pensiero penose riflessioni sulle avventure della sua vita. Ma la sera rivide Osvaldo, sempre più preso da lei, e tutto ciò che le rimase nello spirito dei discorsi del principe di Castelforte fu il desiderio di fissare Lord Nelvil in Italia, facendogli amare le bellezze di ogni genere di cui questo paese è ricco. Con tale intenzione gli scrisse la seguente lettera. La libertà del sistema di vita che si tiene in Roma scusava questo passo e Corinna in particolare, sebbene si potesse rimproverarla di troppa franchezza e disinvoltura nel carattere, sapeva conservare molta modestia nella sua vivacità. Corinna a Lord Nelvil, 15 dicembre 1794. Io non so, milord, se troverete che io abbia troppa fiducia in me stessa o se renderete giustizia ai motivi che possono scusare tale fiducia. Vi ho sentito dire ieri che non avevate ancora viaggiato per Roma, che voi non conoscete né i capolavori delle nostre belle arti, né le antiche rovine che ci insegnano la storia col mezzo dell'immaginazione e del sentimento, e ho disegnato di propormi a voi per guida in queste corse attraverso i secoli. Senza dubbio Roma vi presenterebbe facilmente un gran numero di dotti, la cui profonda erudizione vi potrebbe essere molto più utile, ma se io posso riuscire a farvi amare questo soggiorno verso il quale io mi sono sentita sempre imperiosamente trasportata, i vostri studi termineranno ciò che il mio primo imperfetto concetto avrà cominciato. Molti forestieri vengono a Roma come se andassero a Londra e a Parigi per cercare le distinzioni di una città grande e se si avesse il coraggio di confessare che uno si è annoiato in Roma, io credo che la maggior parte di essi lo confesserebbero, ma egli è ugualmente vero che vi si possono scoprire degli allettamenti dei quali uno non si stanca mai. Mi permetterete voi, milord, di desiderare che non vi siano ignoti questi allettamenti? Occorre quindi dimenticare qui senza dubbio tutti gli interessi politici del mondo, ma allorquando questi interessi non sono congiunti a dei doveri o a dei sentimenti, essi raffreddano il cuore. Serve quindi rinunciare a ciò che si chiamerebbe altrove piaceri della società. Ma tali piaceri quasi sempre snervano l'immaginazione. Si gode a Roma di un'esistenza simultaneamente solitaria e animata, che sviluppa liberamente in noi stessi tutto ciò che il cielo vi ha situato. Io ve lo ripeto, milord, perdonatemi, questo amore per la patria che mi fa desiderare di farla amare da un uomo come siete voi, e non giudicate con l'austerità inglese le testimonianze di benevolenza che un'italiana crede di potervi dare, senza perdere nulla ai suoi occhi né ai vostri. Invano Osvaldo avrebbe tentato di nasconderselo, egli fu vivamente contento di ricevere questa lettera. Vi scorse un avvenire confuso di godimenti e di felicità. L'immaginazione, l'amore, l'entusiasmo, tutto ciò che vi è di divino nell'anima dell'uomo, gli parve riunito nel progetto incantatore di vedere Roma in compagnia di Corinna. Questa volta non fece riflessioni, questa volta uscì nel punto stesso per andare a vedere Corinna e, cammin facendo, guardò il cielo, trovò il bel tempo e la vita gli parve davvero leggera. I suoi rammarichi e i suoi timori si perdettero nelle nebbie della speranza. Il suo cuore, da lungo tempo oppresso dalla tristezza, palpitava ed esultava di gioia. Temeva solamente che una così fortunata disposizione non potesse durare, ma l'idea stessa che potesse essere passeggera somministrava a questa febbre avventurosa ancora maggior forza e attività. Eccovi, disse Corinna, vedendo entrare Lord Nelvil. Ah, perdonatemi! E gli stese la mano. Osvaldo la prese, vi impresse le labbra con viva tenerezza e non sentì allora quella timidezza che si mischiava sovente con le sue impressioni più gradevoli. Gli dava qualche volta, con le persone che amava, più amari e dolorosi sentimenti. Un'intima corrispondenza era cominciata tra Osvaldo e Corinna, dopo che si erano lasciati, l'aveva stabilita la lettera di Corinna. Essi erano contenti entrambi e sentivano l'uno per l'altra la più tenera riconoscenza. Vi mostrerò dunque questa mattina, disse Corinna, il Pantheon e San Pietro. Io avevo certamente qualche speranza, ella soggiunse sorridendo, che voi accettereste di viaggiare per Roma in mia compagnia. Di conseguenza i miei cavalli sono pronti. Vi ho aspettato, voi siete giunto, tutto va benissimo. Partiamo. Donna sorprendente, disse Osvaldo, e chi dunque siete voi mai? Da dove avete preso tante attrattive diverse che sembrano doversi escludere a vicenda? Sensibilità, brio, profondità, grazia, disinvoltura, modestia. Siete voi forse un'illusione? Siete voi una felicità soprannaturale per i giorni di colui che vi incontra? Ah, se io ho il potere di farvi qualche bene, riprese Corinna, voi non dovete credere che ci rinunci, giammai. Riflettete, soggiunse Osvaldo, afferrando con trasporto la mano di Corinna. Riflettete sul bene che volete farmi. Da 2 anni circa una mano di ferro stringe il mio cuore. Se la vostra dolce presenza mi ha dato qualche riposo, se io respiro vicino a voi, che diventerò mai quando bisognerà rientrare nella mia sorte? Che diventerò io? Beh, lasciamo al tempo, lasciamo all'evento, interruppe Corinna, il decidere se questa impressione di un giorno che ho prodotto su di voi durerà più di un giorno. Se le nostre anime si intendono, la nostra mutua affezione non sarà passeggera. Che ne sia, andiamo ad ammirare insieme tutto ciò che può sublimare il nostro spirito e i nostri sentimenti. Gusteremo sempre in tale modo qualche momento di felicità. Nel terminare queste parole, Corinna scese e Lord Nelvil la seguì, sorpreso della sua risposta. Gli parve che lei ammettesse la possibilità di un mezzo sentimento, di un'attrattiva momentanea. Finalmente credette di scorgere della leggerezza nella maniera con cui si era espressa e ne rimase offeso. Egli si pose senza proferire parola nella carrozza di Corinna, che penetrando nei suoi pensieri gli disse: io non credo che il cuore sia fatto in modo che si provi sempre o nessun amore o la passione più invincibile. Ci sono degli inizi di sentimento che un esame più profondo può anche dissipare. Uno si lusinga, uno si disinganna e l'entusiasmo stesso di cui siamo suscettibili, se rende più rapido l'incantesimo, può fare parimenti che sia più pronto il raffreddamento. Voi avete riflettuto molto, signora, sul sentimento, disse Osvaldo con amarezza. Corinna si fece rossa a queste parole e tacque per alcuni istanti. Poi, ripigliando il discorso con sorprendente miscuglio di franchezza e dignità, io non credo, ella disse, che una donna sensibile sia mai arrivata fino all'età di 26 anni senza avere conosciuto l'illusione dell'amore. Ma se il non essere mai stata fortunata, se il non avere incontrato l'oggetto che poteva meritare tutte le affezioni del suo cuore è un titolo per risvegliare dell'interesse, io ho diritto al vostro. Queste parole e l'accento con cui Corinna le pronunciò dissiparono un poco la nebbia che si era alzata nell'animo di Lord Nelvil e gli disse, non di meno tra sé, è la più seducente tra le donne, ma è un'italiana e questo non è il cuore timido, innocente, ignoto a se stesso che possiede senza dubbio una giovinetta inglese alla quale mi destinava mio padre. Questa giovinetta inglese si appellava Lucilla Edgermond, la figlia del miglior amico del padre di Lord Nelvil, ma ella era ancora troppo bimbetta quando Osvaldo lasciò l'Inghilterra perché potesse sposarla e neppure prevedere con certezza che cosa ella sarebbe diventata un giorno. Capitolo 2. Osvaldo e Corinna andarono di primo lancio al Pantheon, che presentemente si appella Santa Maria della Rotonda. Per tutto in Italia il cattolicismo ha ereditato dal paganesimo, ma il Pantheon è il solo tempio antico che in Roma si è conservato tutto intero. Il solo in cui si possa osservare nel suo insieme la bellezza dell'architettura degli antichi e il carattere particolare del loro culto. Osvaldo e Corinna si fermarono sulla piazza del Pantheon per ammirare il portico di quel tempio e le colonne che lo sostengono. Corinna fece osservare a Lord Nelvil che il Pantheon era costruito in modo che paresse molto più grande di quello che non è. La chiesa di San Pietro, ella disse, produrrà su voi un effetto tutto diverso. Voi la crederete sulle prime meno immensa di quello che è realmente. L'illusione così favorevole al Pantheon deriva, per quanto sia sicura, dall'esservi un maggiore spazio tra le colonne ed intorno una libera ventilazione di aria e soprattutto dal non vedervisi quasi ornamenti minuti, mentre a San Pietro, all'opposto, c'è sovraccarico. In tal guisa, appunto, la poesia antica non disegnava che le moli in grande e lasciava al pensiero dell'uditore riempire gli intervalli e supplire allo sviluppo. Noi altri moderni, in ogni genere, diciamo troppo. Questo tempio, continuò Corinna, fu consacrato da Agrippa, il favorito di Augusto, al suo amico o piuttosto al suo padrone. Questo padrone, tuttavia, ebbe la modestia di rifiutare la dedica del tempio e Agrippa si vide obbligato a dedicarlo a tutti gli dei dell'Olimpo per rimpiazzare il dio della terra, la potenza. Vi era un cocchio di bronzo sulla sommità del Pantheon in cui erano collocate le statue di Augusto e di Agrippa. Da ciascun lato del portico queste medesime statue si ritrovavano sotto un'altra forma e sulla facciata del tempio si legge tuttora Agrippa l'ha consacrato. Augusto diede il proprio nome al suo secolo perché egli fece di questo secolo un'epoca dello spirito umano. I capolavori in diversi generi dei suoi contemporanei formarono, per così dire, i raggi della sua aureola. Egli seppe onorare abilmente gli uomini che coltivavano le lettere e la sua gloria rifulse assai nella posterità. Entriamo nel tempio, soggiunse Corinna. Osservate, rimane scoperto quasi come lo era una volta. Si dice che questa luce che veniva dall'alto fosse l'emblema della divinità superiore a tutte le divinità più basse. I pagani hanno sempre amato le immagini simboliche. Pare infatti che tale linguaggio convenga meglio della parola alla religione. La pioggia cade sovente su questo pavimento di marmo, ma i raggi pure del sole vengono a illuminare le preghiere. Quale serenità, quale aria festiva si osserva in questo edificio. I pagani hanno divinizzato la vita e i cristiani hanno divinizzato la morte. Tale è lo spirito dei due culti, ma il nostro cattolicismo romano è meno tetro, tuttavia. di quello del nord. Voi lo osserverete quando saremo in San Pietro. Nell'interno del santuario del Pantheon sono situati i busti dei nostri più celebri artefici. Essi decorano le nicchie in cui si erano collocati gli dei dell'antichità. Siccome dopo la distruzione dell'impero dei Cesari noi non abbiamo quasi mai avuto in Italia un'indipendenza politica, così non si trovano qui né uomini di Stato né grandi capitani. Il genio dell'immaginazione forma la sola nostra gloria. Ma non trovate voi, milord, che un popolo il quale onora in tal modo i talenti che possiede meriterebbe un po' più nobile destino? Io sono rigoroso rapporto alle nazioni, rispose Osvaldo, e credo sempre che meritino la loro sorte, qualunque essa sia. Questa è cosa ben dura, riprese Corinna. Forse però, vivendo in Italia, voi proverete un sentimento di compassione per questo bel paese che la natura sembra avere ornato come una vittima. Ma almeno vi sovvenga sempre che per noi, coltivatori delle arti, per noi amanti della gloria, la nostra più cara speranza consiste nell'ottenere un posto in questo luogo. Io ho di già notato il mio, disse lei, additando una nicchia ancora vuota. Osvaldo, chissà che voi non ritorniate in questo medesimo recinto quando vi sarà situato il mio busto. Allora? Osvaldo la interruppe all'improvviso e le disse: Sfavillante di giovinezza e di beltà, potete voi parlare in tal modo a colui che la sventura e i patimenti fanno di già piegare verso il sepolcro? Ah, riprese Corinna, la tempesta può troncare in un momento i fiori che tengono tuttora alzata la testa. Osvaldo, caro Osvaldo, soggiunse, perché non sareste voi felice? Perché? Non me ne domandate mai, replicò Lord Nelville. Voi avete i vostri segreti, io ho i miei. Rispettiamo scambievolmente il nostro silenzio. No, voi non sapete quale scossa io proverei se bisognasse raccontare le mie sventure. Corinna si quietò e i suoi passi nell'uscire dal tempio erano più lenti e le sue occhiate più pensierose. Ella si soffermò sotto il portico. Là, disse a Lord Nelville, c'era un'urna di porfido di superba bellezza trasportata adesso a San Giovanni Laterano. Essa conteneva le ceneri di Agrippa che furono depositate ai piedi della statua che si era innalzata a lui medesimo. Gli antichi avevano così a cuore l'addolcire l'idea della distruzione che sapevano allontanare ciò che essa può avere di funesto e di spaventevole. Vi era d'altronde tanta magnificenza nelle loro tombe che il contrasto del niente della morte e degli splendori della vita vi si faceva sentire il meno possibile. Era vero altresì che la speranza di un altro mondo, essendo presso di loro molto meno viva che tra i cristiani, i gentili si sforzavano di disputare alla morte quel ricordo che noi depositiamo senza timore nel seno dell'Eterno Dio. Osvaldo sospirò e se ne rimase in silenzio. Le idee malinconiche hanno molte attrattive, fin tanto che non siamo stati noi medesimi profondamente infelici, ma quando il dolore in tutta la sua asprezza si è impossessato della nostra anima, non si ode più, senza palpitare, ciò che una volta non eccitava in noi che dei pensieri più o meno dolci. Capitolo 3. Si passa nell'andare a San Pietro, sul ponte di Castel Sant'Angelo, e Corinna e Lord Nelville lo attraversarono a piedi. Su questo ponte, disse Osvaldo, ritornando dal Campidoglio, io ho pensato lungamente alla vostra persona. Io non mi lusingavo, rispose Corinna, che l'incoronazione del Campidoglio mi fruttasse un amico. È bensì vero che nel cercare la gloria ho sempre sperato che essa mi avrebbe fatto amare. A che servirebbe ella per le donne almeno senza questa speranza? Fermiamoci qui ancora per qualche istante, riprese Osvaldo. Quale monumento tra tutti i secoli può essere valutato più di questo luogo che mi rammenta il giorno in cui vi ho veduta? Io non so se mi inganno, riprese Corinna, ma mi sembra che si divenga più cari l'uno all'altra nell'ammirare insieme le memorie che parlano all'anima con vera grandezza. Gli edifici di Roma non sono né freddi né muti, li ha concepiti il genio e memorabili avvenimenti li consacrano. Forse anche bisogna amare, Osvaldo, soprattutto un carattere tale qual è il vostro, per compiacervi a sentire con lui tutto ciò che vi è di nobile e di bello nell'universo. Sì, riprese Lord Nelville, ma nel guardare voi, nell'accostarvi, io Non ho bisogno di altre meraviglie. Corinna lo ringraziò con un sorriso pieno di vezzi. Nell'andare verso San Pietro si fermarono davanti a Castel Sant'Angelo. Ecco, disse Corinna, uno degli edifici più strani, questa tomba di Adriano cambiata in fortezza dai Goti, porta il doppio carattere della sua prima e seconda destinazione. Edificato per la morte, lo circonda impenetrabile recinto e, nonostante i vivi vi abbiano aggiunto qualche cosa di ostile con le fortificazioni esteriori, che fanno un contrasto col silenzio e con la nobile inutilità di un monumento funebre, si vede sulla sommità un angelo di bronzo con la sua spada nuda. E nell'interno vi si sono costruite prigioni molto crudeli. Tutti gli avvenimenti della storia di Roma, da Adriano fino ai nostri tempi, sono collegati con questo monumento. Belisario vi si difese contro i Goti e, quasi tanto barbaro quanto coloro che lo attaccavano, lanciò contro i suoi nemici le belle statue che decoravano l'interno dell'edificio. Crescenzio, Arnaldo da Brescia, Nicola Rienzi, quegli amici della romana libertà che hanno preso così spesso le rimembranze per speranze, si sono difesi a lungo nella tomba di un imperatore. Io amo queste pietre che si uniscono a tanti fatti illustri. Amo siffatto lusso del padrone del mondo, un magnifico sepolcro. C'è qualcosa di grande nell'uomo che, possessore di tutti i godimenti e di tutte le pompe terrestri, non teme di occuparsi anticipatamente della morte. L'anima è ripiena di idee morali e di sentimenti disinteressati, da che se ne esce in qualche maniera dai confini della vita. Da questo sito, continuò Corinna, si dovrebbe scorgere San Pietro e fino a questo sito dovrebbero estendersi le colonne che lo precedono. Tale era il superbo disegno di Michelangelo. Egli sperava almeno che si sarebbe compiuto dopo di lui, ma gli uomini dei nostri tempi non pensano più alla posterità. Quando una volta si è messo l'entusiasmo in ridicolo, si è distrutto tutto fuorché il denaro e il potere. Siete voi che farete rinascere questo sentimento, esclamò Lord Nelville. Chi provò mai la felicità che io gusto? Roma mostrata da voi, Roma interpretata dalla immaginazione e dal genio. Ah, Corinna. In quel momento apparve loro San Pietro. Quella fabbrica, la più grande che gli uomini abbiano innalzato, poiché le stesse piramidi d'Egitto le sono inferiori in altezza. Io avrei dovuto forse, disse Corinna, farvi vedere in ultimo il più bello dei nostri edifici, ma questo non è il mio sistema. Osvaldo sentì una commozione straordinaria nell'arrivare in faccia a San Pietro. Era la prima volta che l'opera degli uomini produceva su di lui l'effetto di una meraviglia della natura. È quello il solo lavoro dell'arte sulla nostra terra attuale in cui si veda quel genere di grandezza che caratterizza le opere immediate della creazione. Corinna godeva dello stupore di Osvaldo. Io ho scelto, gli disse, un giorno in cui il sole risplende luminosamente per farvi vedere questo monumento. Vi riservo poi più intimo, più religioso piacere, ed è di contemplarlo al chiarore della luna. Ma bisognava in principio farvi assistere alla più brillante delle feste, il genio dell'uomo decorato dalla magnificenza della natura. La piazza di San Pietro è attorniata di colonne, svelte in lontananza e massicce e grosse da vicino. Il terreno, che va sempre salendo un poco fino al portico della chiesa, aumenta pure l'effetto che essa produce. Un obelisco di 80 piedi di altezza che par che sorga appena dirimpetto alla cupola di San Pietro è situata nel mezzo della piazza. La sola forma degli obelischi ha qualche cosa che piace all'immaginazione. La loro vetta si perde nell'aria e sembra portare fino al cielo un grande pensiero dell'uomo. Fermatevi qui un momento, disse Corinna a Lord Nelville, che era di già sotto il portico della chiesa. Fermatevi prima di alzare la tenda che copre la porta del tempio. Il vostro cuore non palpita nell'avvicinarvi a questo santuario? Egli camminava lentamente ai fianchi di Corinna e l'uno e l'altra non dicevano parola. Là tutto comandava, il silenzio, la sola preghiera, gli accenti della sventura da qualunque fievole voce si partissero agitavano l'anima profondamente in quei vasti luoghi. Corinna interruppe l'estasi di Osvaldo e gli disse: Voi avete veduto delle chiese gotiche nell'Inghilterra e nell'Alemagna, voi avete dovuto osservare che esse hanno un carattere molto più tetro di questa chiesa. Vi era qualche cosa di mistico nel cattolicesimo dei popoli settentrionali. Il nostro parla all'immaginazione con gli obiettivi esteriori. Michelangelo ha detto nel vedere la cupola del Pantheon, io la situerò in aria. E infatti San Pietro è un tempio basato sopra una chiesa. Vi è qualche alleanza delle religioni antiche col cristianesimo nell'effetto che produce sull'immaginazione l'interno di questo edificio. Io vado là sovente a passeggiare per restituire alla mia anima la serenità che perde qualche volta. Sì, rispose Osvaldo, qui le arti hanno della grandezza, l'immaginazione e l'invenzione sono piene di genio, ma c'è anche protetta la dignità dell'uomo? Guardate, proseguì Corinna, quelle statue situate sulle tombe, quei quadri mosaico, pazienti e fedeli copie dei capolavori dei nostri grandi maestri. Io non esamino mai San Pietro a parte perché non amo di trovarvi quelle bellezze molteplici che disturbano un poco l'impressione dell'insieme. Ma che cos'è dunque un monumento in cui gli stessi capolavori dello spirito umano compaiono come adornamenti superflui? Questo tempio è come un mondo a parte. Vi si trova un asilo contro il freddo e il caldo. Esso ha in sé le sue stagioni, la sua perpetua primavera, che l'atmosfera esterna non altera mai. Sotto al pavimento di questo tempio vi è edificata una chiesa sotterranea. I papi e molti sovrani di paesi stranieri vi sono seppelliti. Cristina, la regina di Svezia, dopo la sua abdicazione, gli Stuardi, dopo che fu rovesciata la loro dinastia, Roma da lungo tempo è l'asilo degli esiliati del mondo. Roma essa stessa non è ella detronizzata. Il suo aspetto consola i re spogliati come lei. Mettetevi qui, disse Corinna a Lord Nelville. Vicino all'altare, nel bel mezzo della cupola, vi scorgerete attraverso le inferriate la chiesa dei morti che è sotto i nostri piedi. E nel rialzare gli occhi, i vostri sguardi giungeranno appena alla sommità della volta. Questa cupola fa risvegliare un sentimento di terrore. Si crede di vedere degli abissi sospesi sulla sua testa. Tutta questa chiesa è ornata di marmi antichi e queste pietre ne sanno più di noi sui secoli decorsi. Eccovi la statua di Giove di cui si è fatto un San Pietro ponendogli un'aureola sulla testa. La teologia cristiana e le immagini del paganesimo, finalmente la riunione la più ammirevole dello splendore e della maestà che l'uomo può dare al suo culto verso la divinità. Non crediate però che il nostro spirito sia frivolo, il nostro carattere leggero, la vanità sola partorisce la frivolezza. L'indolenza può generare degli intervalli di sonno o di oblio nella vita, ma essa non logora né dissecca il cuore, e per nostra malavventura si può uscire da tale stato col mezzo di passioni più profonde e più terribili di quelle delle anime abitualmente attive. Nel terminare queste parole, Corinna e Lord Nelville si approssimavano alla porta della chiesa. Corinna fece notare a Lord Nelville, allorché furono fuori dalla chiesa, che sulle sue porte erano rappresentate in bassirilievi le metamorfosi di Ovidio. Nessuno si scandalizza a Roma, ella disse, delle immagini del paganesimo quando le belle arti le hanno consacrate. Le meraviglie del genio recano sempre all'anima sua un'impressione spirituale e noi facciamo omaggio al culto cristiano di tutti i capolavori che gli altri culti hanno ispirato. Osvaldo sorrise a questa spiegazione. Credetemi, milord, continuò Corinna, che vi è molta buona fede nei sentimenti delle nazioni la cui immaginazione è vivacissima. Ma domani, se lo gradite, vi condurrò al Campidoglio. Io ho, come spero, da proporvi ancora molte passeggiate. Quando esse saranno finite, sarà allora che voi partirete. Sarà allora che... Non proseguì, temendo anzi di avere detto troppo. No, Corinna, replicò Osvaldo. Io non rinuncerò a questo lampo di felicità che forse un angelo tutelare fa splendere su me dall'alto dei cieli.